sei a posto? Sì, sì, sono in cantina da mia suocera. Meno male, meno male. Un po' di collante si appoggia, dai, se devi cavare chi si, si rompe, si mette il collante, metti i mattoni, hai cambiato tutto, si apposta. Boni, e deve sfasciare da sotto il lavandino sino alla braga, o sbaglio? No, dal gabinettino che c'è di fronte, perché la sonda arriva fino alla fine proprio. Quindi uno dei mattoni c'è al gabinetto, andando verso la cucina, indietro, basta. È ok, è importante che abbia i mattoni, dai, quello è, vuol dire molto, perché poi rimetti lo stesso mattone e non si vede più niente, fai un bel lavoro e buonanotte ai suonatori. Sì, purtroppo lo distrugge il primo e il secondo mattone per trovare il tubo, capito? Quindi se ce l'ha uguale, perfetto, ha fatto 13. Esatto, esatto, sì, perché poi se hai i mattoni praticamente ritorna tutto come era, capito? Solo che il lavandino ti sgorga meglio e non ce n'è quando funziona tutto bene. Giusto, va bene. Tutto il cortile di casa, dai. Allora sei posteggiato. Fatto un parcheggio, dai, lascialo qua. Ok. Bene, bene, Gianni, ti sento anche nel parcheggio. Dai, io chiudo la casa. Bene, va bene, già siamo qua. Ok, va bene, Gianni. Manuele. Dimmi. Ma la schiena ti fa ancora male? Sì, mi fa male, infatti ho fatto risonanza. Mi ha detto che la schiena ha peggiorato. Come ha peggiorato? Probabilmente nei giorni scorsi mi ha fatto male il fianco, la verità. Però adesso che mi preso freddo, perché ti spiego perché, mi mettevo la borsa calda e mi passava. Sì, allora, per 3-4 minuti l'ho fatto, non è, sto bene. Ma io non sono ingrassato come te, dai. Ah, poi mi sento il fegato ingrossato, un casino, ho fatto le analisi tutti sballati, valuti. Beh, che mangi troppo, tutto mangi tu, capita, salchizza, ghita, ghidaccio, Ma che se lo mangi di più, adesso riso, il bianco, mi adesso un altro piatto di riso a cena. E ce la fa male, che riso ce la fa bene, capito? Hai capito, oh Carlo, prima riso diventa 110-115 kg e poi c'è che fa la dieta. Quando si vede che di nuovo bello arzillo, te la mangia. Vabbè, purtroppo al mangiare non si resiste, è che bisogna moderarsi, mangiare di tutto ma poco, capito? E il problema sta lì. Io grazie a Dio non ho quei problemi, nel senso che mangio e arrivo a 80-82 kg, insomma, se poi mi lascio un pochettino andare arrivo anche a 84, capito? Per tutti è così, però se sei così pesante ne risente la schiena e quindi ti vengono i mal di schiena eccetera, perché tutta la struttura la colonna vertebrale deve reggere tutto quanto il peso, capito? E quindi quello è fondamentale. Ma lui ha avuto l'operazione come l'ho avuta io, a lui però la gambetta gliel'ho messo a fianco, a me invece dietro, cioè davanti, l'abbiamo aperto davanti, quindi nella schiena e a fianco l'ho aperto, a me, davanti e dietro, comunque. In fatto sta, io ho pensato, ma non è che ho qualche tirante mi sei staccato a me, no? E quando mi stavo in metà all'etro orizzontale, mamma mia il dolore che mi venivano. E poi piano piano passavo per la calda, da un ciescio, vedete, messo la borsa calda, capita, mi passava. E allora ho fatto così, fatica molto di meno, io non riuscivo a quasi chinare perché c'è avuto dolore al fianco. Capito, Manuè? A te non ti fa male il fianco? Manuè? Sì. Ho detto, il fianco non ti fa male a te? Sì, mi fa male anche il fianco. Sì, capita. Andare. Comunque, risulta tutto quello che ti ero fatto. È tutto a posto, sì. Di che cosa? Il tirante, la gabbietta che a te te l'ho messo me. Sì, a posto, però devo scendere di peso perché sennò si aggrava di più. E devo scendere sì perché sennò è un casino. E se no il grasso poi copre la gabbietta e tirante o no? Pensare ai cuscinetti che ci abbiamo. Praticamente il grasso va a toccare l'uno con l'altro. Cioè, il cuscinetto sei tutto, le maglie dell'amore? I cuscinetti della schiena, dove ci avevamo la cartellina consumata. Ma io non ne ho cartellina consumata. Il mio è il canale dove passavo tutti i tendini alla fine è muto, ecco perché mi ero messo la gabbietta e tirata e mi ero allargato, ecco perché sto bene. A te è diverso, ma io c'avevo la cartilagine e consumato l'anello e toccava l'uno con l'altro. Capita. A me mi hanno fatto, se ricordi bene, sono andati insieme a operarci, io solo un bene del disco me l'hanno fatto. Da te ho detto, ma noi, a me è male che anziché un bene del disco me l'hanno aggiunto anche tre, perché mi sono messo due gambe, prima una gamba, adesso due gambe. E invece poi mi hanno parato e dirò, io sono vinto 100.000 volte, manco a paragone. Sì, a lanciarmi la scarpa mi rompe le palle, è la verità. Però metto piede sulla sedia, mi chino leggermente e me la lascio, capito? Un casino, adesso... E piano piano... scritto anche per queste medicine che c'ho anche il fegato ingrossato e mi ha prescritto anche queste medicine, giorno e sera. Prendere puntuale, mi raccomando, ma noi quelle medicine, perché se c'è il fegato ingrossato, io grazie a Dio, faccio per le analisi, non sono a posto. Niente, sto mangiando anch'io sballato perché arrivo tardi a casa, che per questo lavoro, capito? E quindi niente, mi ha preso praticamente fisso anche a lavorare con lui, li faccio da autista e poi tutti gli impianti elettrici, di cui si sta aprendo, comprando, niente, che dà, se vediamo che casino, che, ma a me già mi fa bene, dai. E deve aprire una volta pronto, c'è un'altra a Cagliari. Mi cerco il impianto che me lo fai tu e me. Comunque la verità, io sto bene. Sì, sono un po' incasinato nel cibo perché a volte dice dai rimani qua a mangiare e ti prendo un kebab. No, non le voglio, la gabbiglia, ando a casa e bagno. Perché a me questi kebab alla fine, oh per carità, no. Una o due volte mi passa, io vado a casa e faccio una bella spaghettata quando ne ho voglia. Sì, mangio sballato perché l'orario non è più quello di prima, capito? E io a luna stavo già pranzando per esempio e alle 8 di giorno stavo già cenando, invece adesso è tutto diverso. E vabbè, avanti Carlo. Bisogna un attimino, insomma, mettersi a posto, dai, speriamo bene Emanuele che ti faccia il mal di schiena e tutto il resto, e purtroppo gli acciacchi ce li abbiamo un po' tutti, dai, e chi più e chi meno, a una certa età succede, basta non abbattersi e andare avanti, perché altrimenti chi si ferma è perduto, dice il proverbio. Vai Tony. Giusto Carlo, perfetto, sacrosante parole. Ma comunque, io vorrei scendere un po' di faccetta perché veramente mi sono scocciato e sarei anche meglio. Contanto c'è questo, se io scendo almeno di qua sai 10 kg, con 10 kg mi dovrei fare tutto il guardaroba da capo. Adesso di là. Perché tra pantalone e coso e insomma maglietta eccetera. E vabbè comunque, sarei anche meglio diciamo fisicamente, perché che a me che mi sopra quindi questa pancetta un po' di stomaco per rompere i pallucci. Esatto, io mi qua ero in scrivania e avevo ordinato tempo fa una di quelle più lunghe che sono fatte a serpentina, che si allungano e si accorciano, no? Che sono comode dentro casa, a volte devi, che ne so, attaccare un attimo un elettrodomestico oppure ti serve il saldatore sul tavolo, devi fare una saldatura e non ci arrivi col filo, quindi quella la lasci dentro il cassetto e non ne trovi più. L'ho ordinata e mi hanno risposto che le avevano terminate, anche a ordinarla su Amazon. Niente, e allora stamattina sono andato su da ElettroPiù in via Vardarbasso e lì ho trovato il filo spiralato, bello, grosso, capito, che è lungo un metro e mezzo e si estende sino a 3 metri e passa. Però ovviamente non avevano però la presa asciucco, perché io voglio farmi tutto presa e spina asciucco, capito? Perché a casa c'ho questo tipologia di prese così e quindi mi serve una spina così nera e spina e però le troverò da qualche altra parte, magari vado da Tecnomat domani e già le trovo, così mi faccio questa prolunghetta. Sì che ci sono da Tecnomat, ti prendi maschio e femmina al B30, che sono quelle 5 sciuco che tu dici, si chiama il B30, capito? ce l'ho qua fuori, ho messo la bitretta, femmina e maschio, grazie a Dio, sono veramente un po'. E ce l'ho anche per, diciamo, per il forno, perché si rompe, ho messo una peruga nuova, l'ho fatto, perché se era sciolta è un casino, chissà chi l'ha fatto quel lavoro comunque, e l'ho messo il cavo da quattro, cioè non ho capito. Andò bene, avanti Gianni, no, Gianni non è ancora entrato. Chi è che è Gianni Meduccio? Boh, hanno fatto troppo lì, non c'è, ci ha promotato qualche giorno e poi non può più entrare. Eh no, Gianni sicuramente avrà parcheggiato, starà salendo a casa, magari ancora non ha acceso la radio, non si è messo comodo. Già riprende Gianni, già bussa. Cappa. Va bene. Sono al telefono, non so come. Ho capito già, sei al telefono. Cico B, Manuele, qua si sposa di tanto, per me ma niente perché l'ho fatto che sta di mai a dieta, comunque, Carlo, io mi sono quello che ho sistemato, ho trovato la persona giusta, mi ha preso in simpatia, mi vuole bene, mi porta la patata, guida tu, da tu c'ho sotto, mi si fa patente, mi sei bravo, mi fa l'autista, guida che dà, come sta il lavoro, poi ogni volta che entra un cliente subito sì, lui è il mio elettricista, sì, guarda, in questi giorni allora dice, gli devo fare una bella chiacchierata con lui perché è un impianto, comunque mi sto trovando un sacco di, diciamo, di persone, clienti che insomma farò piacere, dai. Voglio perdere il tuo libro, buonasera, come sarà? Ero scomprendito dal tuo eco, ma che dai. No, bene bene Gianni, a bomba qua, però abbassa l'eco, fondo scala qua mi arrivi. Papa, guarda adesso come va, Carlo, c'è ancora l'eco? No, adesso no, adesso no, fondo scala qua mi stai arrivando già, come se fossi sotto casa. Beh, ha attaccato. Sono con il Luis, Cicova, nella dai, per la verità. Gianni, a me non voglio dire, perché io so come arrivi qua e ho passato il locale proprio che le persone portano 7, 2, 3, 5. Ma te sei sempre fotoscala, calmati, sa che poi c'è anche il saturo. Ma cosa si dice Henry? Sono io. Adesso è staccato. La mazza che te ne scenda. No, volevo provarlo con lui, se non l'avevo ancora provato, dai. Adesso sto uscendo con 3-4 watt, dai. Adesso sei tu, vedi, sentivo 7, perfetto. Come vuoi farlo con altre persone, ma come lo fai? Ce lo sai. E qua c'è lo sportellino che si apre e dice, mi già l'hai attaccato. Sì Gianni, il passaggio dopo andava un pochettino meglio, capito? E cavolo, di segnale lì a bomba qua, capito? Però, come ti ha detto Tonino, un po' saturo, capito? Però già ti capivo. E come hai sganciato andava meglio. Perché questo qui non si può controllare, invece capito? Hai problemi di radio. Io? Sì, si è andato diminuendo, sparendo, poi li ha comparso, diglielo tu capo. Magari come hai tirato il filo oppure ti sei spostato, non lo so. Guarda, adesso dimmi se c'è problemi, vai su 3, 4, 5, perché ero lontano, l'ho allontanato dalla bocca, capito? Adesso già va bene. Sì, va bene, bene, no, io magari ti rallontano. Non tanto che non l'attaccavo più e adesso lo faccio andare un po', va. Va bene. Io ho dei frigo, me lo cino dopo, me la faccio qualche fettuzza, dai. Ma la radio è amplificata, Scappa. Perché questo qui basta che lo tocchi un pelino, no? C'ha il cursore. E come tu tocchi un pelino entra l'eco, perché tutto è un cursore, non è che ne ha due, uno dell'eco e uno del volume. Come lo tocchi un pelino solo entra l'eco. Comunque oggi quando sono entrato stasera ho notato una cosa, quel vento forte che avevo fatto. Caspita, ecco perché si accendevano qualche d'uno in ritardo e poi poca luce in fare copri solari. Me l'ha usci tutti quanti in ora a Maraga, addrizzati piano piano, tutte e quattro, papilliga, poca miseria. E io via. Vabbè, comunque, questo qui è il microfono che ho pagato due lire, la Midland l'avevamo preso con Franco dalla stazione, ne abbiamo preso due, una fesseria l'abbiamo pagata 27 euro, una cosa del genere, cioè l'offerta della Midland e ne abbiamo approfittato. E già sono buoni quelli della Midland, li ho provati anche io già. Quando è che si rompe il pavimento? Cioè? Cosa tu lì? Quando è che ti decidi a rompere il pavimento, dai? A rompere tutto? No, poi c'è la capiente, boh. No, no, ancora niente. Ho speso questo mese, ho fatto, stamattina ho fatto la revisione alla macchina, domani devo andare a pagare l'assicurazione e niente. Ho speso e purtroppo la pensione è quella che tu, non è che posso cavare chissà che. Vabbè, c'è di cosa poco, 2-3 mila euro, dai. Ma capace che adesso il tipo che è venuto, l'idraulico, che l'ha detto senza salutare, si è cazzato nero. Gli ho detto, guarda come fa un po' di acido per sbloccarlo. E lui, oh, non ti preoccupare, c'è cioè, la pompa con la più lunga. Ha mandato l'aria e l'ho riparato indietro, l'ha tutto spostato sul giubbotto. Ah, quando mai lo travaglia col giubbotto sopra. E si è incazzato, ha preso i ferri di fretta, tutto quanto scascato, se n'è andato senza salutare. E anche tu lascia, no, devi mettere già, che vedi, è pericoloso, torna indietro, mi da faccia guai. E lo mettono tutti questo, stai scherzando, Torino. Lo mettono tutti, lo mettono anche gli idraulici. Addirittura a me l'altra volta abbiamo messo questo acido, però non si trova più, si chiama Ferrari. E l'avevo preso alla Sirtel perché me l'aveva detto dove l'aveva comprato, ce l'ho detto, l'ho preso 3 volte io. Quello lì fa, bollisce 5 secondi, ributti l'acqua calda, blu e si svuota e praticamente sgorga tutto quanto. E cioè, se cerchi di sturarlo, ma io l'ho avvisato, ho detto guarda che ho messo l'acido, non è sceso perché è otturato. E quindi lui lo sapeva, deve mettere lo straccetto a terra come facevano gli altri, invece lui non ne ha messo, come l'ha dato il colpo, il contraccolpo, blum. Sì, ma già, allora, per me sono tutte porcherie questi idraulici, per carità, dite una cosa del genere, sono proprio macchi. Io lavorerei sempre sull'asciutto, colpi di, diciamo, di pompa, lei massimo ha fatto l'atmosfera e basta, non funziona, niente, si apre e si, o si istruisce il tubo o si fa quello che ho detto io. E basta, i lavori sul pulito, è inutile a stare buoni acidi, a spendere soldi, puoi rovinare anche, diciamo, l'automazione, perché questi acidi, come sono fatti, che potenza hanno, non è che si sa, non ti sura niente, se tu l'ho dato quanto roba è buca, ma carità, di là la parte fa tutta. Avanti Carlo. Insomma, vabbè già, con chi se la vuole prendere, e lui insomma è un esperto e quindi dovrebbe saperlo che se c'è un'ostruzione del genere, pompi, pompi, ti ritorna tutto indietro. Poteva mettere uno straccio, capito? E come hai detto tu, uno travaglia in coso, in giubbotto, aiu. E ovviamente magari ci teneva il giubbotto, si sarà incazzato, e buon viaggio già se se n'è andato. Quando non ti ha salutato, pazienza. Si è bruciato il giubbotto. Ah, gli ho detto mettilo sul tavolo, allargalo che te lo pulisco io. No, ha preso, se la buccia in alto, mi si contiene. Ti ho detto, ma come la villa da faccia? Non si mette niente Gianni, la capelli gli acidi per carità che fanno male. E vabbè. Adesso faccio l'ultimo tentativo, tu. Chiamo mio padrino, vediamo un po' se loro sono, cioè, ci lavorano tanti anni, quindi Marras Gesuino lo conosci? No, non lo conosco. Vedi tu, io certo con la casa così non ci sarei stato, è la vera che lo scarica. Oh. Buonasera, cazzo tuo padrino è quel furfante. Sì, mio padrino. No, per caro io l'abitavo io prima, Gesuino Marras. Vabbè, lui è grande di età, sono i figli dipendenti. Chiamalo, è quella gente competente. Quella gente competente. Cazzo di che viene a travagliare, che noi giunto in abito. Ciao Carlo, ma ciao. Claudio, noi siamo lì. Sì, è mio padrino di crisi, va Claudio. Ciao, conosco. Ciao, conosco. Sì, ci conosco. vita io. Quando ero caposcala, c'ho anche il numero di telefono ancora, Gesù non va adesso. Che sono bravi, chiamalo. Ha giunto quello che è venuto, che si è rovinato il giubbotto, a chi non è giunto in abito. No, ma gli altri hanno messo tutti quanti uno straccio attorno allo scarico, no? Hanno messo lo straccio e poi hanno messo la, punta, dai, per sparare. So che il cazzo ha detto, mantienimi dietro, perché il cazzo adesso gli dava il culo forte, ma ha sparato, pum, tutto quattro lacci dell'arco. E l'ha anche detto, guarda che ho messo l'acido, quindi non è sceso perché, vabbè. Vuol dire che quello invece di fare il dato deve fare il garanto neri, avanti Tony. Ma innanzitutto siccome tu c'è quel magneto, c'è quel lavandino, devi tappare due anni da te, tappa là, diciamo il pompino con l'altro straccio e lo straccio intorno alla pompa dove tira l'aria, capito? Cioè questi accorgimenti devi fare, se no ti spiace la parte all'altra è un casino perché è tutto collegato e va a finire la braga. Un po' ho già ben intento, non dico che sono un profano di queste cose, però sono più bravo elettricista che idraulico, ma ripeto, queste cose le sappiamo. Sempre si tappa, cazzo, dove c'è, l'aria al lavandino, anche quando costruo il lavandino, no? Se mai mi, per esempio, qualche volta è capitato, ma leggero, no? Cioè l'acqua scendeva piano piano, e si ostruisce piano piano, e costruo il lavandino, pone la mano in un goccio di l'aria, e non ti spruzza, se tu quello lasci aperto, ti spruzza l'acqua sopra. E il troppo pieno è, claro, quello lì, il troppo pieno, mentre lo straccetto si è a posto. Ma cazzo, ma lì cosa è imbecille? Magari non ci ha pensato, ma mi è dispiaciuto perché cazzo la sua roba era mischiata d'acqua, non era puro puro, ci avevo buttato anche acqua calda per cercare di sturarlo, quindi non era puro, non era acido puro, più che altro perché l'ha schizzato, si è cazzato. Vabbè, comunque se chiami Amara se già puoi risolvere il problema, non ti preoccupa, c'hanno un sacco di attrezzatura loro per fare questi lavori, ma noi quando si era intasata la colonna montante del palazzo facevano piano per piano, dagli sportellini, perché ogni piano c'ha lo sportellino di ispezione per la colonna montante e fermarsi, perché è un palazzo di 10 piani, quindi devi averlo per forza. Facevano piano per piano, fino a quando sono riusciti a intercettare dove era l'intasamento, l'hanno stasato. E gente che fa quel lavoro. E sono mediani che lo fanno. Erano amici con mio padre, gesuino, quindi veniva, andavamo anche a pranzo, a casa sua venivano loro, cosa. E tanti anni che mio padre lo conosceva, poi era anche cliente di mio padre era cliente suo qui. Gesù Mase lavora molto con i condomini, capito? Quindi hanno un sacco di attrezzature, ti ripeto, perché io ci ho collaborato un sacco di volte. Mi occupavo proprio io della torre, del mio palazzo. Quindi quando c'erano problemi mi avvisavano, chiamavo a Gesino Vares, capito, anche per la caldaia, sono anche molto bravi con la caldaia, con le caldaie, quindi non c'è problema. Va bene, Carlo riprendi, io rimango un attimo con rischi in QRX che sto controllando la caldaia a proposito. L'ho accesa poco fa, adesso la basso sarà troppo alta, vai Carlo. Sì, a Claudio. Già, toglimi una curiosità. Dal tuo scarico di cucina alla braga, quanti metri sono? Penso sui 7 metri, no, 4 metri sono, 5 metri. No, già, perché ho preso 4, al massimo se ci sono pure 4. La sonda, diciamo, sino a che punto arrivava più o meno? Sino alla braga oppure si fermava prima? Un po' prima si fermava. Allora... mi sa che capito, l'ostruzione è quasi nel tratto finale, capito, proprio vicino alla braga, quindi forse converrebbe, come diceva Tonino lì, aprire, togliere il VC, ispezionare la braga e vedere magari anche se si può operare da lì, capito. Diversamente sfasciare solo quel tratto lì, capito, e poi lì si innesta quell'ultimo tratto. Comunque un lavoro, diciamo, un idraulico bene che lavora con uno che sa usare lo scalpello lì, aprire senza fare molto danno, tagliando solo un mattone, non dovrebbe essere molto neanche dispendioso, capito? A un paio di mattoni vanno bene, dai, lavori bene almeno. E vabbè, adesso vediamola. Per il momento lo sto usando così e va bene. E va bene così. Poi il prossimo mese magari lo facciamo. Giustamente uno lo fa quando si può fare, dai. Non è un problema. Purtroppo a volte succede, sono cose fastidiose, però vedrai che prima o poi troverai la quadra anche di questo scarico e riprenderà a funzionare bene come prima. Del resto le cose usate ogni tanto ci sfasciamo anche noi ogni tanto e ci dobbiamo aggiustare, e quindi così succede alle cose. Tutto quanto si sfascia, dopo un po' di tempo si sfascia tutto, c'è poco da fare. Per quanto la tratti bene la roba, quando c'è i suoi anni, ha la sua durata, capito? Anche i telefoni sono fatti per durare quegli anni lì e basta, poi l'hanno detto anche alle Iene. Esatto, infatti dai, vedrai che già troverai la soluzione, capito? Io non ti posso essere d'aiuto perché non è che ho tutte le competenze così da che ci vorrebbero. Fattore bravo che apre e poi l'idraulico, poi interviene l'idraulico. Quando ha finito l'idraulico ti ha sostituito i pezzi, si fanno le prove, se non perde niente, capito? Si chiude col cemento, come asciuga, poi un po' di colla, come si fa, si mettono i mattoni, si stucca e non si vede più niente. È una cazzata lì, capito? È proprio una cazzata fare quel lavoretto lì. Attenzione, ma c'è di noghi! Avanti, su! Cappa, parla mobile, Antonio, tutto del rientro! Ciao! Antonio, dove sei? A Sant'Orsola! Cappa! E gli arrivi bene, no? Ciao Antonio, sempre a Sant'Orsola, sì! Ero da mia cognata, ero! Arriviamo bene lì a tu! A Puglia che arrivi bene! Ti sento benissimo! E beh, ciccio! Che ti fa con quello pizzerino! Ah, che bello! Vabbè, ti ero già messo, sei parito! Sì, stavo preparando a mangiare! E te? Io sono proprio vicino a te in questo momento, sotto di te quasi! Sì, con la schiena! Gaffa, gaffa! Tutto del rientro a casa! E a preparare a mangiare! Ehi, Anto, magari ci sentiremo più tardi se hai la possibilità, dai. E se stai rientrando, piano piano e sta attento. Ancora, sono qua proprio a Santa Maria di Pisa, sono proprio in questo momento sto transitando dove abita. Già sei vicino, allora se sei a Santa Maria di Pisa. Aspetta, l'apparato 3. Dove abita Manuele proprio, sono proprio qua. Manuele c'era prima, solo che non lo sentivo io. Come non lo senti? È entrato, cucciolo! Lui ciccio! Emi, c'era anche Tonino, lui ha detto, Tonino mi ha detto che mi sentiva a me, però io non lo sentivo. Come no? Carlo, e con questo come ti arrivo? Fondo scala, già, bomba. Cappa. E a te, Antu? C'è una bomba, io non, che sono a Santa Maria di Pisa, c'è una bomba. Cappa, cappa. Vabbè, allora, questo qui è il tuo sapporecchio che accendo. Così li faccio girare tutti stasera. Accendo le baracchine, parla tutti contemporaneamente già. Sì, troppo alto, non capisco cosa dici tu. No, non ti conto niente, io sono sempre lo stesso, già. Il microfono è sempre quello volume, e mo basta, a metà. Io lo sento bene. E anche io lo sento bene, Tonino. Ma lì allora magari siamo più vicini, capito? E infatti, magari è a seconda di come siamo messi, capito? Molte volte è quello. Io già sono messo bene. Brecco. Avanti, Brecco. Luca, da questa parte, buonasera a tutti. Buonasera, Luca. Ciao Luca. Ecco, ecco. Luca, la mia figlia ha voltato male, ma niente, bisaccio. Ah, Luca, perché ha fatto tutto quel rumore? Non ho capito. Cos'è? Sto mangiando pistacchi, crema di pistacchi, ma mi hai visto? Certo, quando schiacci il TTT e quando vuoi, ma rimbocciando il bisaccio. Perché fa casino? Io fa poco il casino. Non saprei cosa fare. Anche io, infatti, lascialo così, guardino a tutti. Allora, buonasera a tutti, ciao. Anche a Emanuele, mi arriva, bassino ma mi arriva. Ok. E questo microfono sempre sta funzionando, sì già. Già nel parito. Bravo, bene sta funzionando questo microfono. È una mitragliatrice, Claudio, già sta uscendo bene, bello bello. Capito? Bello potente, forte e chiaro. Siamo incontrati questo microfono adesso. Ho avuto tutto a fare a pezzi, guarda. Gli MC60, se no li usi, è un casino, è un casino. Ho dovuto cambiare anche l'interruttore, c'è sotto, cambiare. L'ho smontato, tutto pulito, ripiazzato, pulito tutto con la trilina, perché si bloccano, capito? Non ti va la preamplificazione. Infatti Marco me l'ha fatto abbassare l'altro giorno, dice che era al limite, adesso l'ho abbassato, anziché un e mezzo ce l'ho uno, ma già va bene. Torino sta uscendo benissimo, Gianni. Vabbè, voi siete un tiro di schioppo, quindi però qua arriva bene. Vai Torino, mi senti bene? Sì. Ah no, ma come al solito Claudio. Adesso non riesco a capire una cosa però Claudio. Senti leggermente Emanuele che con un attimino che se lo vedi mi fa ridere, è la posizione in cui è. E qui su Zampea te non ti intendi, a me mi sembra strano, eh. Cosa vuoi ti dica? Io Emanuele lo sento, Emanuele sente anche a me, non ci sono problemi. E lo so che ti siete Emanuele, caspita. Sì, ma hanno fatto niente con la TV Runda, mi sembra strano. Arriva a tutte le parti. Ma sai qual è il problema, la cosa che insomma non siamo da Vasa in radio, che lui a me mi sente in lontananza, no, perché dice che mi sente ma non mi capisce, lui a me mi arriva Santiago 7 a dire ecco anch'io ti ricevo S1, S2, ma S7 e lui a me non mi sente niente, è un problema suo, infatti io non faccio un dramma, non me la fu di una. Beh, in effetti sì, io Claudio, è un problema suo giustamente, ma vabbè comunque. Avanti Gianni. Io sono passato al numero 1. Ma perché hai attaccato? Se vado in base, sei uscito saturo, la mazza è tele scelta. Non c'ho nulla attaccato. Gianni, sta zitto che come un altro può fare, come no? Troppo in grezzo sul lineare. Poi ci siete subito, dai. Io ho sempre il locale inserito e lo vedo da 7 poi alle 9 di go e poco. No, ma se l'ho appena attaccato e però lo lascia regolato come deve essere, non ci sono problemi. Solo che se c'ha l'ingresso troppo alto sul lineare va a saturare. Ma perché così sa? No, così va benissimo. E così guarda. Una volta. Perché quelle dita grande non le metti nel cassetto? Le devi lasciare fermo, capito? Devi lasciare quella radio, deve funzionare con l'amplificatore, la devi usare con l'amplificatore sempre, oppure la devi tenere basso i watti, capito? Se tu alzi i watti. Lo so, ma devo tenere a 30. A 30 il coso, il regolatore del power. Lascialo così che è perfetto. Parliamo adesso, dovrei staccare. Se ne vai a attaccare, siamo in 4 e siamo vicino all'altro. Sei 9, quasi 9 più 10, qua liscio, così a cazzo devi attaccare. Vabbè, qua non c'è nessun motivo di attaccare. Attaccalo quando senti quei pisquari di fuori. Luca! Luia! Sei qua, Fufi! E te? Beh, Fufi, sempre mi viene, dici, Pio. Poi Claudio, ciao, buonasera. Oh, cosa mangi? Gioca a dieta. Luca, ci sei, batti un colpo. Ci sei, cazzo. Sono diventato una botte. No, sono magrolino, 55 kg. 115. Pesa. E io. Quanto deve fare, come è? Sono delicato io. Delicato, un biatto. Riprendi, Luca, che sei l'ultima entrata e fai girare la ruota che mi allontano un minuto. Capa, a me mi fa una cosa strana questa radio. Come attacco 1000 watt mi si apre lo sportello del freezer e non riesco a capire perché, se c'è una legge fisica che fa una cosa del genere. È normale Luca, anche io quando attacco il drone amplificatore in HF mi si apre il cancello da solo. Infatti mi volevo chiedere all'elettricista pazzo se è normale. A me guarda, quando non sono squelci mi si apre il cancello. Allora è peggio di Romeo. Mi sa che chiamano l'idraulico, quello che si è fuggito correndo, e chiedo a lui, perché il casino non è solo che mi apre lo sportello, si sono fuggiti tutti quanti i gambaroni. Sono tornati indietro i gamberi. Un attimo il bianco per me, avanti Carletto. Ehi, Luca, ma sei attaccato? Negativo, pulito. Cavolo, fondo scala qua mi stai arrivando, eh. Io ho cambiato l'antenna, guarda il mio segnale, prima ti arrivavo forse 9. Non è 9.30, ma 9.20, un po' di più di 9.20. E andrà bene, ho messo la boomerang ieri e quindi la sto ancora un po' testando, però va decisamente molto meglio all'altra. E tu infatti non mi arrivavi così forte, mi arrivavi massimo Santiago 9 anche con l'antenna esterna, adesso mi stai arrivando a fondo scala come Gianni. Siete tutti messi bene, grazie a voi, Palazzoni, Ghide, Ghidacco, soltanto io e Claudio siamo messi fuori, però ci facciamo sentire, e quello vuol dire molto. Grazie a voi che siamo piano terra. E vabbè, Claudio e tu, Tony, io vi ho sempre sentito, anche in macchina, ovunque, addirittura con Claudio a volte mi ha seguito sino ad Alghero, io Claudio lo sentivo sino all'aeroporto in macchina. Ma lo posso immaginare, certo, ho detto che Claudio ci esce bene, non c'è problema. Io abito dove abito, giustamente è colpa mia, abito in questa zona, però già mi faccio sentire, perlomeno, se poi non sento più nessuno, pazienza. Sì, ma figurati, tu già vai bene, e io per adesso molto meglio rispetto a prima, dai, almeno adesso posso dire di avere un antennino più prestante. Adesso è proprio pulito, Carlo, adesso è buono. Va bene così, adesso per adesso lascio tutto così, e almeno mi rilasso in questi giorni di ferie, qualche chiacchierata in più alla radio e niente, domani mi hanno invitato a cena fuori e quindi domani sera intorno alle 7 devo uscire perché ho un appuntamento alle 8, quindi domani sera magari non ci sarò, però diciamo anche durante il giorno io a volte ci sono in radio, perché se non esco, come ritorno a casa, se non sto pranzando eccetera, sono al computer qua, ho la radio a fianco e quindi accendo sempre. Io purtroppo le mattine sto lavorando e pomeriggio lo stesso, quindi mi auguro che dopo domani c'ho un po' di pausa, perché se non farò quella traccia che l'ho chiesto, io mi devo fermare per forza. Tutto resto la cucina, domani infilo tutto, collego tutto e sono a posto. Io penso in 3-4 ore finisco tutto, comunque, per il sicuro, se poi c'è anche la sera, farò anche la sera, non mi frega niente, dove arrivo. Andiamo bene, Meda. Gianni, ripeto. Domani noi dalle 8 a mezzogiorno siamo senza luce. Come mai? E lei me l'ha messo il cartello nel portone, che devono staccare la luce. Ma stanno facendo la zona, l'altro giorno era nella zona di Marco Condor. Ah, te la metto la bruca da casa mia già. Io c'ho le batterie, della macchina. No, a mezzogiorno poi la riattaccano, solo che adesso devo staccare, mi devo ricordare stanotte di staccare tutti gli elettrodomestici, perché se attacca di colpo ti brucia. Ah, fai di un gruppo elettrogeno. A chi ti un gruppo elettrogeno va a casa tua? io sì, io non le pago bene. Bravo, ma tu metti benzina, nafta, cos'è, come scelta? Non mi dispiace tutta la casa. No, non si è attaccato al traliccio, Emanuele. Via. Io non è un bimbo, non dobbiamo funere i titoli che si attaccano agli altri. E questo tipo di roba mi stava raccontando che gli arrivavano bollette esorbitanti, andato a lei per protestare, erano in due e hanno trovato collegato a uno vicino a casa sua. Allora Claudio, tu cosa ci trovi altro che venerdì? Io credo. Un colpo di rotta. Allora, di notte là. Ehi, quando l'ho conosciuto a Cinta, tu, guarda di cosa minaccia. Guarda, scopo, io apri torre e ti posso uscire davanti la coppa. E poi era fantastico, cazzo. Vabbè, la voglio avere la voce, poi dice, quando lo vedi, cazzo, ti metti il cappio da solo. Io mi so anche dove abitava, raga. Via Madonnina, su, invece, fine della fontanella, salita a sinistra. Allora, già. Oh, dimmi. Stavi parlando di attaccarci a Rosolò e l'anno, adesso non mi ricordo se è nel 90, forse 90, 95, 92, se mi ricordo, avevo già le 9,22 della Kenwood da 2 kW, che usavo il 27, infatti lì a Carbate, lì a 2,4 sono tutti pariti. I tuoi si sono realizzati in via nei riunti di Rogiacchino che andavano via. Io per poter funzionare quell'amplificatore, perché cioè, avevo 3 kW a carbonazzi, io l'ho collegato alla luce delle scale, no? Perché era 6 kW perché c'è collegata anche la forza motrice che c'è l'ascensore. Quando parlavo, sì, che magari saliva qualcuno al buio, le luci delle scale, tutto lampeggiava. E hanno avvisato il capocondomino che c'era un difetto alla centralina delle scale. A me me le faceva accendere e spegnere già un aristocrate che c'avevo a casa di mamma. E si lui a Bozzi, spegni quella cosa che mi sta ammassando la luce. Io ho disturbato la questura con il Galaxy 1000 che avevo. Cazzo, è venuta la polizia a casa, è venuta che trova da Murchi addirittura. Ragazzi, state parlando di legnari della 27, quelli li ho avuti anche io, ho giocato, sto parlando delle tiole 922 a Kenwood, della linea Kenwood, che usavo con 940 a 27, sempre la Kenwood, che c'ha due valvole, le 3530 costava 250 l'uno, costava, ma sono so, che sono due fondi in bottiglia, capito, due valvole grandi, sono mancanti un buccioni. Sorgimento allucinante, quindi quando io parlavo la peggiava la luce delle scale. E mi chiamato l'amministratore giunto elettricista e non trovava il guasto, non trovava, diceva, ma che non c'è nessun problema, non si tiene a posto, il coso è a posto, tutti i pistolari erano a posto, tutto a posto. Solo la prima venda io, la peggiava le luci degli scali. E era l'assorbimento le valvole, specialmente quando sono così grossi. Assorbivano solo l'accensione, mi sembra che erano 2 kW, 2 kW e 100, quindi quando andavo a parlare 3 kW a me mi scattava il contattore, ma con tutto spento, tutto spento, ma non avevo la tavola, una soluzione, tic-tac, giocata da sopra, l'ho detto, già bella, se no avevo 6 kW, e gente a trovare un cavo, siccome era il loro piano allora, no? Quando abitavo, perché io ho fatto il loro piano, della torre, sono molti di ciò ci è messo a scelta al secondo, capito? Quindi praticamente il cavo ce n'era pochissimo, mi pare che ho 5 metri di cavo dall'ascensore a casa. Prolungato la prolunga, mi sono collegato in chiudimento. Quando l'ha scoperto l'amministratore, si sono da giubilato. C'è uno sgamato. Ma io non c'ero al lavoro, praticamente si è bloccato l'ascensore, così, normale, è arrivata la corna e ha visto questo cavo collegato alla centralina dell'ascensore, ha chiamato l'amministratore, perché hanno visto che il cavo è entrato nella fretta con la cameretta mia dove c'avevo le radio io, capito? Mi ha voluto bene. Perché lì c'era la denuncia penale. Che truffa! Truffa al condominio, Vandabra da mamma, che l'ha affrettato. Entrato da ieri, poi abbiamo avuto il giovane Molinari, ma quella mamma mi c'era una scuola assieme. Quello era bravo lo stesso. Non era un altro combinato, perché di due. Io una volta quando sono da postare a cazzo mi mancavano 10 di fornire con la paria di sera a padre di cazzo la luce in cameretta, ma si buca uscivo fuori e poi con la scala e ci mettevo quella bruciata. Oh, ioi. Mi ha compromesso al telefono Monello, cazzo, Monello, abbia tu e io mi vorrei a casa. No, non è vero. Di Nevaria, Luca Repedi. Ho chiamato a Molinaro, aveva lo studio in via Nunzio Cervi. Yeah. E anche qua è stato capocondomino. Sì, in via Nunzio Cervi, no, non siamo passati. Siamo stati a scuola assieme. L'abbiamo avuto una decina d'anni, ma poi non so se ha cambiato lavoro o aveva avuto problemi di salute, perché aveva mollato d'improvviso. Sì, aveva avuto dei problemi, adesso mi ricordo se era a causa di un incidente, faceva una verifica in un cantiere, in un condominio, o che cosa, comunque aveva avuto un problema alla schiena, una cosa del genere, non era più in forma, ci avevamo visti una volta e me l'aveva raccontato. Mi ricordo che facevamo le riunioni di condominio lì nel suo ufficio. No, noi c'avevamo la sala condominiale su, la sala condominiale. Era scritta così, ma poi è diventato il mio covo, c'avevo tutta la attrezzatura lì, quindi in primi periodi sì, facevano le riunioni su. Poi mi sono rotto le palle, ci passava un casino, allora io tutti fuori le balle, avevo cambiato la serratura, non c'è entrato più nessuno. È così. Non è al telefono, Carlo, ancora c'è. Capo, volevo chiedere, ma ha migliorato così, perché ho fatto... Ho trovato un tastino per aumentare un po' la potenza. Insomma, sentendo le vostre chiacchiere, di allacci volanti. Sono fatte, erano, si facevano quando ero più giovane. Dimmi, Anto, cosa hai detto? Ho detto, si è migliorato il segnale, perché ho trovato un tasto che non conoscevo. Anto, quel tasto devi abbassarlo e sollevarlo quando stai parlando. Vediamo se è quello. A me, la radio si è trovata. Antonio! E ci ha trovato un tasto? Se non mi dici... Non vedo... differenze qua. No, non tocchiamolo più quello. Cosa è successo? Di sentire dalla radio? No, ma so fare. Aia. No, capo, mi si abbassava un po' di cosa, ma no. Non lo tocco più. Lascia stare così, vai bene. La radio è buona, a posto. Non lo tocchi di nulla. Quando le cose vanno bene, non tocchi se vai Gianni. Ma cosa è? FM500S? No, quella è macchina. Qua a casa, il Cobra. Ah, il Cobra si è usato. E quello se non lo sai usare, c'ha il menu quello lì. Sì, no. No, perché poi devo andare a guardare, a fare. Ok, va. Ce n'è uno di cose per cambiare i colori anche. Va grigio, va verde, blu, color amaranto. Sì, io l'ho messo rosso io. Cattivo. È più bello blu. Gare. Non sei uscito anche qua. Ha giurito gare che si crede io. Ah boh, non lo so cosa che si crede. Carlo, da mangiare, è preparato dai. Aspetta lei che vado a fare a telefonare a mia mamma, riprendi. Sì, Claudio. Jason, non sto preparando. Stanotte mi sa che se viene mio figlio, infatti stavo scrivendo un messaggio, ci prendiamo una pizza, capito? E quindi non c'ho da cucinare niente. Scusate, passo in bianco che mi avvicino a casa di mia madre. Ci sentiamo più tardi. Va bene, ciao, ci sentiamo. Io faccio un bianco che devo andare a cucinare, dai. settimana mi vuole infuocare a casa, questo. Cioè, ha pigliato il suo giocattolo mentre l'ha posizionata la stufa. Ciao Antonio, ciao Luca, ci sentiamo. No, io già sono ascolto a cucinare, ciao, già sentiamo. Beh, non guarisci, fa roba buona, mi raccomando. Ecco. Avanti. Ciao Gianni, buonasera. Ti devo chiedere una cosa gentilmente. Dimmi, capi. Com'è la radio, Gian? Buona. Va bene, ascolta, ti devo far sentire una cosa che tu ci hai avuto e... Dai, mi sai dire... Mi sa dare un parere, scusatemi, chiudo subito, tolgo subito di disturbo. Aspetta, già. Aspetta, passa un altro canale, passa su 21, dai. No, dai, niente, guarda un po' come già, se va bene. Bene. Sì, c'hai l'eco, cos'è il Galaxy? Bella, la scheda, dai, la regolare, la scheda corte. Non lo posso abbassare, devo aprire la radio già, devo abbassare appena la ripetizione, così è, e accorciare un po' il pip, così è. No, il volume, più che la ripetizione non è a... va bene, però se... forse aspetta, c'è il volume troppo alto, io provo a abbassare, provo a vedere. Prova, ora, aspetta che faccio l'ascolto. Questo qui qual è? Quello di già? No, questo è il mio. Questo è il mio sacro. Mi è arrivato la scheda eco e glielo, però devo disallare, devo dargli una registrata, dai. Pagamo. Se passiamo ad un altro canale magari, lo devi mangiare aperto per registrare. No, non ce l'ho aperto, ce l'ho chiuso e devo, dai, a domani apro lo chassis e faccio quello, vi faccio un po' di preascolto, dai, però la base è buona, già. Sì, non ripete, va bene com'è, ecco. Lo devi solo, secondo me, leggermente abbassare, perché è un bel forte. E poi per il resto va di uso, la regolazione dell'eco va bene, è solo il volume secondo me che deve andare appena un pelino più basso. Ok, va bene, dai, e va a strappare, no? Poi magari domani rientri e me lo fai ascoltare, così ti do un consiglio. No, ma sto dicendo come camera eco, come colte, buono oppure perché è una scheda, dai, è per, non è neanche per questa radio qua, però volevo capire se era buono. Tu hai avuto 48 e sai più o meno come diciamo come timbri, che è giusta. Allora c'ha l'eco solo senza coda, cioè non fa quell'effetto di cotter, wow, quello lì non lo fa, e lo devo registrare, dai, lo devo registrare, devo dargli una setta. Va bene, già, dai, grazie, già, devo dargli una registrata. Va bene così, grazie Gianni, grazie ancora, scusate di turbo, dai, tutta le prossime, tutto l'oggio, ciao. Ciao Gabi, ciao, non c'è problema, quando vuoi fammi, chiamami e se ce lo regoliamo magari un altro canale e siamo tranquilli, non disturbiamo. Avanti, buona serata, dai, avanti. Ciao Gavino, se mi senti, buona serata, già è bello quell'eco, ciao. Ciao Carlo e buonasera, ben sentito, sì, ti ascolto bene. S7 Radio 5, qua da me sei S7 Radio 5, nessun problema. Ben sentito dopo tanto, avanti, faccio un altro passaggio, poi chiudo Carlo per salutarti e ringrazio Gianni. Vai Carlo. Eia, ciao Gavino, ben risentito, dai, vuol dire che già ti sto arrivando lì. Qua mi arrivi bello chiaro, forte, 9+20, tutto ok. Non so chi sia rimasto, perché Tonino si era spostato, Luca è andato via, siamo io e Gianni, forse c'è Claudio ancora. Già sono qua, chi è entrato perché? Gavino! Gavino Joker, ciao Gavi, vai la starvie com'è? E allora? Tutto a posto, niente in ordine, andate, è tutto a posto. E qui oggi facendo campagna, dai, facendo in campagna, lo sai io, quando gioco è in campagna facendo pulizia. E va bene, va bene. Com'è la radio qua da Telli? Una bomba, una cannonata, va bene, ottima, ottima. Ah, va bene, grazie, 9+10, 9+10, Radio 5, Claudio qua da me, proprio bello, bello, bello. Gianni 9.30, Claudio S7, a picchi positivi. E va bene, questi sono i miei, diciamo, i miei segnali S-meter che vi posso dare. Le radio sono tutti e tre comprensibili. Quindi io vi copio al 100%, dai, grazie per la pazienza e grazie per l'attenzione, Gianni è gentilissimo. Chiudo, passo in QRT e causa Magnuzia, tutto alle prossime, ci risentiamo, ciao ciao, buon proseguimento, vai Gianni. Ciao ciao Gavi, ti sto salutando che ti ho sentito, ciao ciao. Questo che cos'è? Sempre il gas. Sì, sì, sì, sempre Saturneco, eh. È sempre Saturneco, già, è sempre Saturneco, quello che mi ho fatto io e niente. Sto, dai, gli ho installato quella scheda e la volevo, me lo volevo usare da per fare qualche modulazione effetto rutto, scusando la parola, però devo guardare quei trimerini che ha e farlo, dargli un po' più di effetto, perché l'ho fatto il preascolto e l'effetto, diciamo, l'effetto elicottero ce l'aveva, ma un altro corrispondente sa dirmi cosa devo fare, quindi magari domani glielo do un po' più accentuato e mi faccio risentire. Sta va bene, buona serata e buona ricarica a tutti, anche a chi all'ascolto. Qua io chiudo le trasmissioni. Vai Gianni di nuovo, la buona sera e buona cena. Ciao ciao, buona continuazione, quando vuoi non c'è problema. Avanti Claudio. Ciao Claudio, ciao. Antonio, buona cena anche a te, alla prossima, vai Claudietto. Ciao frate, già ci aggiorniamo, dai, anche tu c'hai un bel segnale qua, ottimo per la truppa, non ci sono problemi. Avanti Antonio. Capo mio, ho sentito adesso, lo saluta Gavino, ciao ciao ciao a tutti, adesso vado ai fornelli, ciao ciao. Ciao ciao ciao, allora chi c'è rimasto qua? Gianni che adesso, già adesso già, 7 metri passati, vabbè c'è Carlo, vabbè lasciato nessuno. 9+10 a picchi positivi sigla, quindi ti ho dato anche questo code, anche questa roba qua, adesso mi viene male a scambiare l'antenna e guardarti con 4.40 o 4.50, ti ho detto però sei 9+10, sei 9+10 perché diciamo i segnali li ho fatti uguali all'HF, quindi 9+10 pieno qua da me a picchi positivi, di nuovo buona serata. Ciao Gavi, quindi non vado più dare un segnale ulteriore a quello che mi hai dato. Assolutamente, tu Antonio mi toccate il fondo scala, tu Antonio mi toccate il fondo scala qua, però Claudio mi fa 9+10, sono entrato anche per dire di quello, 9+10, e se arrivi 9+10 a me, io sono là, proprio nella plana, più basso, sono sotto il livello del mare, dai, giusto per farti capire, 9+10, di nuovo, buona serata, vai Claudio. Gavi ti ringrazio, vabbè allora lo farò a te, sono lì, ma io 9-10 lì da te sono più che soddisfatto perché intanto non vedo Sassa e non vedo niente, sono